La soluzione del nostro quiz, eccola qua. Vi ricordate che cosa succederebbe al nostro corpo se ci avvicinassimo verso un buco nero? Non riusciremo a parlare perché l'aria mancherebbe? Beh, nello spazio interstellare l'aria non c'è da nessuna parte e quindi perché dovremmo trovarla lì? Nel vuoto non si può mai parlare. Oppure un paracadute grande come mezzo emisfero terrestre per rallentare la nostra corsa? Ma perché un paracadute abbia effetto ci vuole dell'aria e poi, altro che mezza terra, un buco nero si mangia un'intera stella e il nostro pianeta è molto meno di una briciola di questo pasto. Invece è vero che l'attrazione gravitazionale del buco nero è talmente forte da avere valori diversi su una distanza anche molto breve. Ciò avviene pure qui sulla Terra. Se stiamo in piedi in un prato, i piedi appunto sono più vicini alla massa della Terra, solo che l'attrazione gravitazionale che esercita il nostro pianeta è semplicemente ridicola rispetto a quella di un black hole. Se fossimo alti 30 km sulla Terra, beh, forse qualcosa di significativo avverrebbe. Invece, cadendo con i piedi verso un buco nero, ad un certo punto ci si può trovare con una differenza, attenzione, di attrazione gravitazionale fra la testa e i piedi di circa 15 volte. Cosa vuol dire? Vuol dire che i piedi sono tirati giù con una forza superiore di 15 volte a quella che tira giù la testa, il che significa, non è un paradosso, che la testa svolge un effetto freno perché è attirata meno. Risultato? È spiacevole, direi. Si finisce stirati come una striscia di gomma.